Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma buona giornata e benvenuti. Abbiamo in regia la parte tecnica Giorgio Mattei, in redazione Laura Vanossi, e subito andiamo ai titoli di oggi. Ernia inguinale e pubalgia. Differenze, cause e terapia. Sbadiglio, un piacere contagioso. Miss Parkinson, storia di una donna che non si è mai arresa. Ernia inguinale o pubalgia? Questo è il dilemma, ma noi proveremo a risolverlo e per farlo ci faremo aiutare dai nostri esperti che sono qua in studio con me. Abbiamo il dottor Stefano Bona, che è tornato a trovarci. Buongiorno, ribenvenuto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Responsabile della sezione di chirurgia colorettale mini-invasiva all'unità operativa di chirurgia generale terza dell'Humanitas di Rozzano. Ed è in studio con noi anche il dottor Furio Danelon. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Cognome triestino. Giusto, corretto. Medico dello sport e fisiatra del centro di riabilitazione ortopedico Isokinetic di Milano. 824-0024. Questo è il nostro numero verde per intervenire in trasmissione. I messaggi, come sempre, al 349-238-6666. Dottor Bona, chi dice ernia pensa subito a una protuberanza, un gonfiore più o meno evidente. È Pensiamo vero. Bene? Certo, esatto. Anche se non sempre ha questa evidenza all'osservazione, però in genere evoca questa situazione. In termini generali, l'ernia si definisce come la fuoriuscita di un organo, di un viscere, dalla sua sede naturale attraverso un orifizio. Un orifizio qualsiasi, esatto, che può essere un orifizio naturale o un orifizio che si è creato nell'organismo a seguito di una situazione patologica, quindi non abituale. Ma facendo l'esempio dell'ernia più frequente, più conosciuta, che è l'ernia inguinale, esiste il canale inguinale, che è un canale, un orifizio naturale sia nell'uomo che nella donna, attraverso il quale passano delle strutture che nell'uomo sono vasi, arterie, vene, nervi, e nella donna invece dei legamenti. E attraverso questo orifizio, che si può dilatare, sfiancare, allargare, può spingere dall'addome l'intestino e fuoriuscire dalla cavità addominale. Quindi questo è il meccanismo di formazione dell'ernia inguinale. Dottor Danelon, invece, chi dice pubalgia in fondo dice tutto e niente. Sì, è corretto. Pubalgia significa dolore al pube, quindi tutte quelle situazioni legate solitamente a patologie, disturbi dell'apparato locomotore che causano un dolore a livello del pube, quindi alla radice degli arti, all'inguine, qualche volta sulla parte interna della coscia, possono entrare in questa definizione piuttosto generica di pubalgia. Dottor Bona, di solito l'ernia inguinale, che è l'ernia più frequente, no? Colpisce gli uomini più delle donne, o sbaglio? Esatto, colpisce un po' più gli uomini percentualmente delle donne. Nelle donne si manifesta un'altra forma di ernia, che è sempre nella regione inguinale, ma che in realtà si chiama ernia crurale o femorale, perché interessa un piccolo orifizio situato in prossimità del canale inguinale. Quindi è più bassa rispetto all'ernia inguinale? Un pochino più bassa, ma è una questione di millimetri. Senta, invece le cause, abbiamo detto una debolezza delle pareti addominali, e nel caso dell'ernia inguinale lei ci ha spiegato di questo canale, ma potrebbero essere anche sforzi particolarmente intensi? Parlando dell'ernia inguinale, il problema è sempre uno sfiancamento a livello del canale inguinale, nel quale addirittura ci sono tecnicamente tre punti diversi di debolezza. Ma a parte questo dettaglio, questo sfiancamento può avvenire per ragioni diverse. Ci sono delle persone che hanno un'ernia cosiddetta congenita, cioè la debolezza del canale inguinale è presente alla nascita, sì, e allora si manifesta facilmente anche nel bambino. E invece questo sfiancamento può avvenire progressivamente nel corso degli anni, o per una predisposizione comunque di una determinata persona, oppure anche a seguito di sforzi fisici particolarmente intensi. Dottor Danelon, invece la pubalgia è sempre legata ad un movimento sbagliato, ad un allenamento non corretto, insomma è legata sempre al movimento, a uno sforzo? Sì, la pubalgia è tendenzialmente un disordine meccanico, cioè trova origine nei disordini meccanici di una parte molto complessa del nostro organismo, che è l'unione di quello che è la colonna vertebrale, il bacino e gli arti inferiori. Quindi è una zona sottoposta a stress meccanici di elevata intensità. E tipicamente si manifesta in seguito a sovraccarico sportivo. Questa è la situazione più frequente, magari con delle cause predisponenti, ma è sempre legata al movimento. La pubalgia non si manifesta mai a riposo ed è sempre correlata dell'attività fisica. Quindi i sedentari, pubalgia poca. Non ne soffrono, è almeno un vantaggio, no? Nell'essere sedentari. Ce ne sono pochi, ma questo è uno. Senta, dottor Danelon, parliamo di sport. Ci sono delle attività sportive più a rischio di altre? Sicuramente, la pubalgia è molto frequente nei calciatori. Chi gioca a calcio, chi corre, nei podisti, e tutte quelle persone che comunque hanno attività fisica appunto in piedi, che corrono, che hanno un impatto con il terreno frequente, ripetitivo. È molto frequente nel calcio, perché nel calcio ci sono dei movimenti tipici, quali il calciare, che è un movimento che è asimmetrico e quindi implica degli stress particolari a livello appunto di questa cintura pelvica che noi abbiamo a livello di pube. Ciclisti inferiori. Salvi? Ciclisti di pubalgia tendenzialmente non soffrono, hanno altre problematiche che riguardano comunque la zona del bacino per il contatto con il sellino, ma non di pubalgia veramente propriamente detta. Dottor Bona, torniamo all'ernia. Può essere asintomatica, ma nella maggioranza dei casi provoca tensione, peso, dolore che si acuisce durante il movimento e cessa con il riposo. Ma questo dolore ha delle caratteristiche particolari? È pungente? Si irradia? No, non ha delle caratteristiche tipiche. I pazienti possono lamentarsi anche semplicemente di un fastidio, di un vago fastidio, oppure di un dolore che può avere caratteristiche diverse, o un senso di peso fastidioso ovviamente, oppure un dolore puntorio, qualcuno un bruciore. In qualche caso hanno un'irradiazione verso la regione genitale o verso la coscia, quando l'ernia magari crescendo sotto pressione stimola qualche nervo della regione inguinale, che è abbastanza ricca di terminazioni nervose. La caratteristica più tipica però è la tempistica del fastidio o del dolore. Il paziente lo avverte quando sta in piedi a lungo, quando cammina o quando fa sforzi soprattutto del torchio addominale. Può essere un colpo di tosse, uno starnuto, sì, oppure anche un esercizio fisico. Mentre il dolore della pubalgia? Il dolore della pubalgia si manifesta sotto stress, quindi durante la corsa, durante il calcio, durante i movimenti. Per esempio il calciatore quando calcia di piatto spesso ha il dolore. Il dolore si manifesta sempre durante l'attività fisica. Più la patologia è grave, più è precoce, quindi all'inizio dell'attività fisica. Nelle fasi iniziali, ed è una cosa molto da temere, è che il dolore si manifesta a freddo, quindi alla fine dell'attività fisica, quando il soggetto si raffredda, per così dire, il dolore si manifesta ed ecco che si rischia di trascurarlo e di soprassedere, e non è il caso di farlo. No. Allora, se vi ritrovate un po' in questa situazione, 800 24 0024, aspettiamo le vostre chiamate e naturalmente i vostri messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Difficile da trattenere, a volte imbarazzante e contagioso. Oggi parliamo dello sbadiglio. Lo facciamo secondo alcuni dati, ve li dico, come li abbiamo trovati 220.000 volte nell'arco della vita, 7-8 volte al giorno. Del resto però non ci vuole molto per sbadigliare, un po' di stanchezza, un pizzico di noia. Ma perché sbadigliamo e perché potremmo in qualche modo evitare di farlo? In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Maria Bressa, docente di psicobiologia del comportamento umano all'Università IPU di Viterbo. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, bentrovati. Allora professore, questo sbadiglio che ci mette, ecco, iniziamo a capire, di solito sbadigliamo o per sonno o per noia. O per fame. O per fame, giusto. Sì. O per mancanza di ossigeno al cervello. Ma lo sbadiglio serve quindi? Lo sbadiglio è un atto stupendo della meccanica del corpo umano, che durante l'evoluzione è stato crescendo e che serve per introdurre violentemente e improvvisamente una grande quantità di respiro, di ossigeno, sì, quindi, che vada a rinvigorire un momento in cui il nostro cervello, vuoi per mancanza di calorie, vuoi per stanchezza, sta battendo la fiacca e quindi segnala attraverso lo sbadiglio questa richiesta urgente di carburante che serva per dargli una svegliata, per farlo appunto vivo. Senta professore, ma lo sbadiglio è contagioso, sbadigliano anche gli animali, ma non, tra loro non si contagiano, mentre basta vedere una persona davanti a noi che sbadiglia e subito dopo ci viene voglia di farlo, come mai? Diciamo che non è esattamente così, diciamo è molto probabile che se lo stesso meccanismo avviene in, vale a dire, la mancanza di calorie piuttosto che la noia, piuttosto che un appesantimento da stanchezza, è contemporaneo in più persone, ci sono dei neuroni nel nostro cervello che tendono ad imitare un comportamento che viene visto in un'altra persona, si chiamano neuroni specchio. Sì. Esattamente la funzione di, quindi, di mimare l'atteggiamento degli altri. Quindi il contagio avviene perché le stesse condizioni sono presenti in un'altra persona e il cervello riconosce, sì, questo bisogno e quindi provvede con lo sbadiglio a risolvere il problema anche di altri che in quel momento magari non avevano la percezione di questo bisogno di aria. Quindi l'imitazione avviene indipendentemente dalla nostra volontà e il contagio si propaga perché più persone sono nelle stesse condizioni, quindi un relatore che veda quattro persone o cinque che sbadiglino è meglio che vada a casa perché sta sbagliando l'impostazione della propria chiacchierata. Senta, professor Bressa, però le nostre mamme ci hanno insegnato a mettere la mano davanti quando sbadigliavamo e cercare di non farci proprio beccare, no? Perché non è gradevole mentre una persona parla sbadigliargli davanti. Però lei a qualche modo riesce a trattenersi nello sbadiglio? No, il modo non ce l'ho io, ma è un modo che viene proprio dalla fisiologia dello sbadiglio. La cosa importante è che quando ci si accorge che tende a ripetersi il fenomeno e non riusciamo ad uccidere colui che di fronte a noi ci annoia o non abbiamo nessun provvedimento mangereccio per bloccare il nostro momento di caduta di calorie, è un piccolo esercizio meccanico, vale a dire tenere mascella e mandibola più vicine possibile, quindi non allargare la bocca tipo ippopotamo e fare uscire lo sbadiglio, non mettere la mano davanti, ma lentamente inalare dal naso aria, quindi tenendo la bocca semi chiusa, controllando la mascella e la mandibola, fare entrare aria via nasale, ripetere l'esercizio tutte le volte, le due o le tre consecutive in cui lo sbadiglio si ripresenta, e a quel punto finiremo di sbadigliare. Non sbadiglieremo più perché abbiamo provveduto attraverso l'inalazione nasale a quella quantità di ossigeno che viceversa viene mandata dentro con la fragorosa apertura di bocca. Professor Bressa, faremo tesoro di questa sua indicazione perché adesso ci saranno le feste, le riunioni in famiglia, magari facciamo tardi, che dice? La suocera noiosa, il gioco delle carte che non abbiamo voglia di fare, i parenti che ci raccontano le loro avventure, delle mangiate incredibili che a quel punto appesantiscono il cervello. Allora portiamoci un carico di voglia, di disponibilità di provare un esperimento che sicuramente funzionerà. Attenzione, nei casi in cui però il nostro interlocutore sia veramente noioso, non adottiamo nessuna tecnica, sbadigliamogli in faccia per fargli vedere quanto è noioso, perché ogni tanto occorre anche questo però. Professor Bressa, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Quando mi verrà da sbadigliare penserò a lei. Mi raccomando, pochissimo. Pochissimo, va bene, buona giornata. Grazie, grazie. Pronto soccorso. Allora, speriamo di non avervi fatto sbadigliare, torniamo a parlare, ad affrontare il tema del giorno, ernia o pubalgia, 824 0024 in studio, qua con me, io sono molto felice quando ho gli ospiti in studio, il dottor Stefano Bona e il dottor Furio Danelon. Arrivano subito le telefonate, un disturbo molto frequente, Alberto da Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, stava sbadigliando Alberto? No, assolutamente. L'attesa non è stata lunga. Senta, due domeniche fa sollevando un peso, ho aperto una fitta molto intensa al basso ventre. Rientra dopo un quarto d'ora circa la cosa, per cui va bene, la giornata prosegue tranquillamente. Sì. Lunedì la cosa non è così simpatica, ho difficoltà a stare seduto, ho avuto dolore e fastidio all'interno della coscia. Verso mercoledì mi reco dal medico, che concorda essere una punta d'ernia e concorda anche con le persone che avevo raccolto in internet le informazioni. Non perché lei è andato dal medico preparato, Alberto? Sì, ho dato bene. Un'occhiatina prima su quello che mi si diceva. Quindi possibilità di rimedio, di rientro naturale della cosa non ce ne sono, quindi soluzione unica è l'intervento. Mi dà l'impegnativa per la visita pre-intervento. Il problema è che nel frattempo la cosa per me è rientrata completamente, io ho ripreso a fare le mie attività tranquillamente, anche ieri addominali senza nessun problema. Cosa sta succedendo? Lo chiediamo al dottor Bona. L'ernia c'era e poi è sparita. Può capitare? Può capitare che l'ernia non sia evidente costantemente. Se è vero però che c'è stata una punta d'ernia, è possibile che non si manifesti quotidianamente, ma che si evidenzi in occasione di periodi di sforzo o di stress, però non è che guarisca. Il difetto nella parete del canale inguinale rimane, quindi sarebbe destinato a ripresentarsi. Ci fidiamo in questo caso della diagnosi di punta d'ernia, perché il meccanismo con cui si è creato il dolore potrebbe anche sostenere anche uno strappo muscolare, quindi un dolore semplicemente da stiramento. E bisogna anche considerare un'altra cosa. Scusate, a volte un paziente si rivolge al medico in relazione ad un evento acuto come lo sforzo, lo strappo, e magari è un problema di stiramento muscolare e si scopre in quell'occasione una punta d'ernia che magari preesisteva ed era asintomatico. Quindi attenzione a differenziare qual è la causa del dolore, al di là del fatto che poi un'ernia probabilmente converrà operare lo stesso, ma quale sia la causa del dolore in quel momento. Abbiamo Silvana, ci chiama da Perugia, 824 0024. Silvana, buongiorno. Buongiorno, senta, io ho chiamato per il problema della pubalgia. Sì. Perché ne soffro da un po' di tempo e sto andando avanti ogni tanto con antidolorifici. Volevo sapere dal professore quali rischi comporta con il tempo. Sì, ma lei è una sportiva, Silvana? No, però cammino molto. Cammina molto, Silvana. E diciamo che soffro di mal di schiena, quindi probabilmente, non lo so, adesso sentivo che è correlata questa cosa. Chiediamo al dottor Danelon di darle una mano. Dottore. Sì, la situazione della signora è abbastanza anomala in un certo senso, perché la pubalgia è una diagnosi più da persone estremamente sportive. È difficile che compaia soltanto attraverso il cammino per quanto prolungato. Peraltro pubalgia è una diagnosi molto generica, bisogna approfondire. È una specie di grande calderone all'interno del quale vanno diverse diagnosi, perché diverse strutture come tendini, legamenti, anche a livello osseo ci possono dare un dolore di tipo pubalgico. Quindi direi che va assolutamente specificata la diagnosi di pubalgia della signora. Come fa a specificare però? Se io vengo da lei, come io e Silvana veniamo da lei, dottor Danilo, non abbiamo male al pube, che cosa ci fa? Diciamo che nell'ambito della visita clinica, che è il primo passo nonché fondamentale, ci sono dei test che ci possono permettere di discriminare tra un dolore di provenienza da strutture tendine, da strutture ossee, dall'osso del pube o anche da strutture nervose, che come diceva prima il dottor Bona sono molto presenti in questi distretti. Quindi la visita clinica, la visita medica è il primo passo fondamentale, deve essere molto approfondita. E secondariamente ci sono degli esami che possiamo proporre per andare ad approfondire il tema. E volevo per l'ascoltatrice sottolineare il fatto che l'utilizzo degli antidolorifici potrebbe essere controproducente, perché ho sentito che usa degli antidolorifici. Verrebbe da fare così, ma è corretto farlo in una fase acuta. Poi però bisogna trovare la causa, che sicuramente è meccanica, quindi l'utilizzo degli antidolorifici potrebbe nascondere un sintomo e quindi nascondere un segnale d'allarme e provocare un progressivo peggioramento della situazione. Quindi gli antidolorifici sono corretti da usare in una prima fase, in una fase acuta, per controllare il dolore magari in coincidenza con un impegno importante per cui uno non vuole essere infastidito o disturbato dal dolore, ma bisogna stare attenti a non certo. nascondere un segnale importante. Quindi, dottor Danelon, vale la regola: se il dolore persiste, consultare il medico, perché le terapie esistono e noi ne parleremo, andremo anche col dottor Bona in sala operatoria, perché l'ernia si opera. Certo, ci sono degli ascoltatori, ad esempio uno aveva che ci scrive: ho 40 anni, mi sono accorto di avere un'ernia inguinale a 16, non ho mai avuto particolari fastidi, ma ora mi sono accorto che è un po' ingrossata, non ho voglia di farmi operare, ci scrive Gianfranco, e noi risponderemo anche a Gianfranco, non per convincerlo a farsi operare, ma per illustrargli quali sono oggi le tecniche a disposizione e magari ci ripensa. Siamo tornati insieme. Tema di oggi: ernia inguinale o pubalgia. Sono due disturbi diversi, con cause diverse, che stiamo affrontando insieme perché sembrano avere alcuni punti in comune. Il primo fra tutti, il dolore. Ma prima di dare la parola agli ascoltatori che stanno chiamando all'800 24 00 24, e quindi sentendo le risposte anche dei nostri esperti, apriamo una finestra per una notizia. È stato effettuato il primo prelievo di rene da donatore vivente utilizzando un robot. In linea con noi abbiamo il chirurgo che insieme alla sua equipa ha effettuato questo intervento, è il professor Ugo Boggi, direttore dell'unità operativa di chirurgia dell'ospedale di Pisa. Buongiorno professor Boggi. Buongiorno. Professore, allora il robot entra in sala operatoria, ci spiega esattamente che cosa ha fatto? Il robot è un sistema tecnologico avanzato che consente di affinare le capacità del chirurgo sia nei sensi, quindi offrendo una visione ad altissima definizione, sia nelle capacità tecniche. Ha consentito di prelevare in modo mini-invasivo, cioè attraverso dei piccoli buchi invece che attraverso un'ampia incisione, un rene da una madre per essere poi trapiantato nel figlio. Questo rene difficilmente avrebbe potuto essere prelevato senza un'ampia incisione usando la metodica tradizionale della laparoscopia, nella quale pure siamo molto esperti, avendo fatto alcune centinaia di prelievi con quel metodo. Era un caso particolarmente complesso che il robot ci ha consentito di affrontare. Professor Boggi, quindi questa nuova tecnologia quali strade potrà aprire in futuro? Le prime strade che vedo nel campo dei trapianti sono quelle di poter consentire di donare un pezzo di fegato e un pezzo di pancreas, sempre da donatore vivente, per trapianto in persone che hanno problemi epatici o di diabete. Sì. Questi sono gli step, come dire, che intravedo nel più immediato futuro. Essendo una tecnologia di avanguardia, come ci hanno insegnato altre tecnologie, evolve rapidamente, quindi è possibile che in futuro si possano fare oggi cose che oggi neppure possiamo immaginare. Professor Boggi, grazie, complimenti, grazie per essere stato con noi e per averci spiegato. Grazie. Buona giornata. Torniamo a noi. Dottor Bona, ma l'ernia si deve sempre operare oppure si può anche evitare l'operazione? O si rischia in questo caso? Innanzitutto bisogna valutare quanto dia fastidio al paziente. E esiste un rischio con l'ernia inguinale, che è quello dello strozzamento. È difficile prevederlo, ci sono sì forse delle caratteristiche che il chirurgo visitando il paziente può individuare per valutare questa eventualità, e sono in linea di massima la facilità o la difficoltà con cui l'ernia rientra nella sua posizione naturale. Però questo rischio non è prevedibile ed è un rischio abbastanza importante in termini di gravità, perché lo strozzamento può portare da un semplice dolore acuto a l'interessamento dell'intestino in questa ernia strozzata, e quindi una complicanza grave, un blocco intestinale, un'occlusione intestinale o addirittura una peritonite se questo intestino va incontro a una sofferenza di circolo. Quindi da una patologia benigna si può arrivare a una complicanza grave che va operata d'urgenza e che ha anche addirittura dei rischi di mortalità in questi casi di peritonite. Quindi la cosa essenziale è quella di rivolgersi intanto a un chirurgo per la valutazione dell'ernia, per una diagnosi precisa, è molto semplice da diagnosticare, la si vede con una semplice manovra, nella maggior parte dei casi si fa la diagnosi. E sarà il chirurgo a consigliare eventualmente la tempistica dell'intervento, perché in linea di massima si consiglia sempre di riparare i difetti erniari. Però una persona può essere magari più o meno tranquilla, programmarlo anche a distanza di qualche mese, se la situazione lo consente, certamente. Andiamo a Caserta, nella provincia di Caserta, ci chiama Marco. Marco, benvenuto, buongiorno. Marco? Sì? Marco, dove era finito? Sì. Buongiorno, non la trovavo più. Mi sente? Adesso bene, grazie. Vabbè, volevo fare una domanda al professore. Allora, mi hanno diagnosticato una punta d'ernia all'urologo, però mi ha detto che volendo, se non mi dava fastidio, la potevo tenere pure tutta la vita. Volevo sapere dal professore se era vero o no, se... Certamente se gliel'ha trovata il medico senza che lei si lamentasse vuol dire che non le dà fastidio. Non c'è nessuna necessità di operarla a breve, però lei, sapendo di avere questo disturbo, terrà questa malattia, che per ora non è un disturbo, terrà sott'occhio magari le dimensioni, magari la comparsa di eventuali sintomi, e si farà rivisitare nel caso ci fossero delle novità in termini o di dimensioni o di disturbi. Dottor Danneron, approfitto di lei. Per le persone che hanno, come nel caso di Marco, una punta d'ernia non fastidiosa e quindi non viene suggerito l'intervento, devono avere delle particolari attenzioni nel svolgere alcuni movimenti, evitare magari alcuna attività fisica? Sì, diciamo che tutte le situazioni in cui la pressione all'interno della cavità addominale aumenta è meglio evitarle, perché potrebbero peggiorare questa punta d'ernia e farla evolvere in qualcosa di più, quindi verso i sintomi che prima ha citato il dottor Bona. Quindi tutte le situazioni che possono essere come quella di sollevare grandi pesi, di spostare le valigie all'interno del bagagliaio dell'auto, tutte queste situazioni, anche per esempio può capitare, può esserci una patologia dell'apparato respiratorio intercorrente, quindi in una tosse per esempio particolarmente insistente e forte, che potrebbe far peggiorare questa situazione. Vladimiro ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Volevo chiedere un'informazione. Sì. Io penso di soffrire di pubalgia, volevo dire che sono stato operato 4-5 anni fa circa, di ernia sulla parte destra. Sono stato operato lì all'Humanitas a Rozzano e niente, però... adesso soffro all'interno della coscia destra, a me non sembra l'ernia, diciamo, ancora, mi sembra proprio la pubalgia, perché anche io faccio l'autista e quando alzo la gamba, oppure quando starnutisco mi fa male sulla coscia destra. Io gioco ancora al pallone ogni tanto. Bravo Vladimiro. E quindi lei un po', Vladimiro, che ha avuto l'ernia precedentemente, si è fatto una sorta di autodiagnosi, mi sembra abbastanza tranquillo, ma io darei la parola ai nostri due esperti, perché ciascuno per la propria competenza può darle una mano. Dottor Bona, già stato operato di ernia, adesso ha male, che cosa può essere? Un ritorno? Una nuova ernia? Che succede? Credo che senz'altro il nostro ascoltatore vada rivisitato. Il dolore può insorgere in conseguenza dell'intervento oppure può insorgere per cause del tutto diverse, quindi va differenziato il problema. Può essere una pubalgia, una cosa insorta indipendentemente dall'intervento che ha subito, oppure essere un esito dell'intervento. È abbastanza raro che questo si ripresenti a distanza di diversi anni, però deve essere valutato dal chirurgo. La possibilità che ricompaia l'ernia è una possibilità concreta, molto rara con le tecniche chirurgiche che abbiamo oggi, che prevedono l'uso di materiali di rinforzo, per cui il rischio di recidiva diventa molto basso, però credo che vada valutato dal chirurgo. Anche secondo lei, dottor Danneron? È importante valutare, l'ascoltatore ha citato il fatto che lui pratica calcio, gioca a calcio, e questo è sicuramente un fattore di rischio, tra virgolette, per quanto riguarda la pubalgia, quindi potrebbe essere una forma pubalgica classica da sovraccarico sportivo. il fatto che il dolore, se ho capito bene, si irradia anche all'interno della coscia, nell'interno coscia appunto comunemente detto, è una zona di tipiche irradiazioni di disturbi dell'apparato locomotore del pube, quindi di pubalgia classica, perché il dolore si può irradiare sia sulla faccia interna della coscia che verso l'addome, che all'inguine stesso ovviamente. Allora, tra poco parleremo di terapie, dottor Danilon, perché una volta arrivata la diagnosi qualche cosa si può fare. Certo, si deve. Si deve fare. E entreremo in sala operatoria col dottor Bona. Buone notizie però, vero? Certamente. Siamo tornati insieme. Veniamo alle terapie. Dottor Danilon, allora, pubalgia, che fare? Si è andati dal medico, è stata fatta la diagnosi, si è capito esattamente l'origine di questo dolore. E gli antinfiammatori, lei ha detto che possono essere usati solamente nella fase acuta, giustamente. E che si fa? Dunque, la pubalgia è un disordine meccanico, quindi va trattata come un disordine meccanico con delle terapie meccaniche. Per terapie meccaniche il consiglio è di affidarsi ad un riabilitatore, ad un centro di fisioterapia, perché attraverso delle terapie fisiche locali, che possono essere l'ultrasonoterapia, l'ipertermia, e ce ne sono di diverso tipo, ma soprattutto attraverso la kinesiterapia, che prevede il rimettere a posto quello che meccanicamente è stato evidenziato alterato alla visita, è fondamentale. Quindi gli esercizi di allungamento, gli esercizi di potenziamento della muscolatura che agisce sul pube e su questo particolare distretto appunto che è l'unione della colonna e degli arti inferiori, è fondamentale. Bisogna affidarsi a mani esperte e bisogna essere molto costanti, perché la terapia non è assolutamente una cosa rapida, perché quando si va ad agire su aspetti meccanici bisogna condizionare delle modificazioni a livello muscolare, sia di allungamento, di flessibilità della muscolatura, sia di forza, e come ben sappiamo su questi aspetti c'è bisogno di molto tempo, quindi bisogna armarsi di pazienza, affidarsi a delle persone competenti del settore, non utilizzare gli antinfiammatori o comunque soltanto in fase acuta, e quindi queste sono i fondamentali. E dopo, e quindi molto tempo, lei mi preoccupa un po', quanto? È difficilmente prevedibile, perché dipende dalla diagnosi, però sicuramente non meno di 2-3-4 settimane prima di avere una risoluzione dei sintomi, di lavoro costante. La costanza è fondamentale, perché chiaramente se il paziente questo tipo di esercizi, che possono essere appunto di potenziamento, di allungamento, di controllo della posizione del bacino, devono essere eseguiti con una certa assiduità, perché sono degli stimoli nei confronti dell'apparato locomotore. Certo. Quindi se sono troppo diradati tra di loro sono inutili, quindi bisogna fare un lavoro che necessita proprio della costanza e della collaborazione del paziente. Quindi si porta anche un po' di compiti a casa al paziente. Un pochino sì. Invece, dottor Bona, se uno ha l'ernia si opera, tutto fatto. Almeno la collaborazione del paziente non c'è. Tutto risolto. Tutto nelle mani del chirurgo. Direi di sì, tutto risolto in breve tempo in sala operatoria, poi ovviamente c'è un periodo di convalescenza al quale, certo, il paziente si deve attenere. Oggi l'intervento per ernia inguinale ormai da diversi anni è stato molto semplificato rispetto al passato, e quello che ha fatto notevolmente la differenza nell'ultimo ventennio è l'introduzione di queste protesi, cioè di materiale sintetico che viene usato a rinforzo della parete del canale inguinale rispetto alle tecniche diciamo più antiche, che prevedevano la cucitura diretta del difetto muscolare. La rete, oltre a garantire un rinforzo, ha anche il vantaggio di evitare appunto la cucitura, e la cucitura è sempre fatta sotto tensione, sì, e quindi provoca dolore e provoca anche un maggior rischio di ulteriore stiramento. Invece la rete sarebbe come una sorta di pezza? Esattamente, il concetto è quello della pezza sulla camera d'aria che non ripara direttamente il buco, ma lo copre e lo sigilla. In questo modo l'intervento può essere intanto realizzato con una semplice anestesia locale, perché è un intervento molto superficiale, interessa i muscoli, i legamenti immediatamente sotto la cute, non interessa i visceri, e non vengono esercitate più sui tessuti delle tensioni con queste suture. La rete viene appoggiata, fissata eventualmente a seconda della tecnica, con dei punti, con delle colle, in alcune tecniche addirittura non fissata. E l'intervento termina in questo modo. Senta, e quando è che si può ricominciare a fare una vita normale? A giocare a calcetto, la butto lì? Allora, una vita normale direi da subito, perché questo intervento si esegue abitualmente in regime di day hospital, quindi il paziente ha bisogno di un'osservazione di 2 o 3 ore dopo l'intervento, durante le quali non è neanche necessario che stia a letto, può stare tranquillo in poltrona e sotto osservazione dei medici, giusto per verificare che non abbia reazioni immediate, certo. Ma poi si può alzare immediatamente, può camminare con le sue gambe, riprende tutte le sue normali funzioni e può tornare a casa. Ovviamente gli sconsigliamo di guidare, ma accompagnato, e non ci sono problemi. Quindi un'attività di tipo normale sedentario la riprende immediatamente. Per qualche giorno ovviamente ha un po' di male. Potrà avere un po' di male, ma non dovrebbe avere nessun dolore, dovrebbe essere controllato con la terapia analgesica per i primi giorni finché ne ha bisogno. Per quanto riguarda l'esercizio fisico è un po' diverso, possiamo chiedere anche al dottor Danel il suo parere, ma ovviamente bisogna astenersi da un esercizio fisico per le prime 3-4 settimane, soprattutto per quanto riguarda lo sforzo della muscolatura addominale. Dottor Danelon, concorda? Sì. Li teniamo un po' a riposo? Sì, il primo mese sicuramente, poi un graduale recupero. Il graduale recupero bisogna considerare, come sempre capita in queste situazioni, che l'intervento provoca una riduzione delle capacità di fare esercizio generale a livello dell'organismo, quindi il recupero deve essere graduale. Vorrei poi chiederle, ma andiamo prima a sentire Andrea da Vicenza, come si può prevenire la pubalgia, dato che è molto legata al movimento? Proprio un paio di regoline. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, complimenti per la trasmissione, perché tutto ciò che dite ogni giorno è oro colato per l'esperienza di vita. Grazie Andrea, mi lascia senza parole. Volevo chiedere ai dottori la mia esperienza. Praticamente una volta stavo per giocare a calcetto e avevo già un piccolo dolore sulla parte bassa dell'addome. Sì. Poi è successo che durante le fasi di gioco a un certo punto avevo il pallone sul piede sinistro e ho traslato la palla sul mio fianco sinistro e ho sentito proprio all'interno dell'inguine proprio strap. Sì, proprio strap e male anche. Esatto. È successo che quella sera lì praticamente a letto tremavo tutto, avevo male l'addominale e avevo qualche linea di febbre. Sì. Il giorno dopo non avevo più niente, però insomma, avevo difficoltà a camminare. Di conseguenza... Sì, Andrea, dovrebbe venire un po' al dunque, perché noi siamo quasi in chiusura, così il dottor Danelon le risponde. Ho aspettato un po' di tempo, continuavo a camminare tranquillamente, però non riuscivo a sforzare con la gamba sinistra. Sono andato da un personaggio che sa, diciamo, competente. E che le ha detto? Mi ha detto praticamente che avevo il bacino spostato. Me l'ha risistemato con delle tecniche e ho visto i risultati, in quanto non sentivo più l'osso, un osso che continuava a muoversi. Certo. E mi ha detto vai a giocare a calcio questa sera. E via. E speriamo che lei abbia vinto, Andrea. Dottor Danelon, un consiglio per Andrea e 2 consigli per evitare di trovarsi nella situazione di Andrea, ma abbiamo proprio pochi secondi. Velocissimo, i consigli per quanto riguarda la prevenzione sono di curare bene eventuali lesioni muscolari che possono intercorrere acutamente giocando a calcio o facendo sport, quindi di non trascurarle assolutamente. L'attenzione in particolare a delle attrezzature esterne, quindi le scarpe con cui si gioca, i terreni con cui si gioca nei quali si gioca è fondamentale l'attenzione, perché i terreni più duri, tipo alcuni tipi di terreni sintetici oppure i terreni ghiacciati invernali sono assolutamente deleteri, quindi possono essere fattori di rischio per la pubalgia. Mentre per dare un consiglio ad Andrea, che ha fatto, se in qualche modo ha rimesso in piedi ed è andato ripreso a giocare, ha giustamente dato attenzione agli aspetti biomeccanici, cioè a quella che è la meccanica di lavoro della zona, quindi la persona a cui si è affidato ha centrato probabilmente l'obiettivo. Allora, io ringrazio il dottor Danelon, ringrazio il dottor Bona che ci hanno aiutato a capire di più di queste 2 situazioni che spesso creano un po' di confusione, non tra voi medici, ma per noi che le viviamo magari sulla pelle. Se avete bisogno di ulteriori informazioni scriveteci esserebenessere@radio24.it. Saluto i miei ospiti allora. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie a tutti, arrivederci. E siamo arrivati in chiusura, ma restate con me perché vi voglio far conoscere una persona che ha tanto da insegnarci. Si chiama Michela Cancelliere, è una donna giovane e bella che a 39 anni scopre di essere malata di Parkinson. Ciao Michela! Buongiorno Nicoletta, come stai? Bene, bene, grazie, tutto a posto. E dovrei dire anche forse, Michela, buongiorno a Miss Parkinson, la tua compagna di viaggio, il tuo alter ego, che ti ha imposto una svolta nella vita, ma che ti ha resa, tu lo racconti nel tuo libro Miss Parkinson, Edizioni San Paolo, una donna diversa e migliore. Sì, decisamente, ti saluto anche Miss Parkinson perché lei è sempre con me, non mi molla mai e nonostante ciò io non mi sento ammalata, ho trovato la formula magica per non sentirmi ammalata. Come hai fatto, Michela? Perché una diagnosi in un'età così giovane destabilizza e praticamente al momento mi ha distrutto questa diagnosi. Ma io poi mi sono rimboccata le maniche, ho preso, diciamo, la cosa di petto e mi sono ripresa la mia vita attraverso tutta una serie di piccole cose, un percorso lento ma inesorabilmente lungo che è arrivato fino ad oggi, dove io vivo come una donna sana. Grande forza di volontà, grande coraggio e determinazione, ti ha aiutato soprattutto la possibilità di parlarne con altri, il coraggio di parlare, di condividere questa tua malattia con altri. Di solito invece le persone malate, soprattutto di una malattia come il Parkinson, tendono a chiudersi e a nascondersi. Tu hai provato la strada esattamente opposta. Sì, io dopo un primo momento di grande disorientamento ho deciso di dirlo a tutti, di dire a tutti la mia storia, perché mi è sembrata così incredibile, così assurda e anche così bella, e l'ho condivisa attraverso il mio libro, e da quando ho condiviso questa storia la mia vita è cambiata ancora una volta in meglio. Michela, allora io vorrei chiudere questa trasmissione facendo ascoltare ai nostri amici da casa un breve estratto dal tuo libro Miss Parkinson, Edizioni San Paolo. Lo sentiamo e intanto saluto Michela Cancelliere e saluto chi ha ascoltato Essere Benessere. Appuntamento domani dopo il GR delle 11. Michela. Grazie e arrivederci e ciao a tutti. Concludo con una delle mie battute migliori. Mi è venuta spontaneamente in risposta a un apprezzamento di un amico riguardo al fatto che sono sempre contenta. Ho replicato: certo che sono sempre contenta, ho davvero tutto, anche il Parkinson.